Eppure l'amore torna a far capolino, a mettere, non diciamo un'ombra, ma una nota più grave nella voce della ragazza, in questo caso una carnica, che ha avuto sempre un uguale destino a cui obbedire, il lavoro. Che stachino la credevi, che mi fosto chiadami, l'han passat io tanta amada, e che stan anche al bundì, urchiantin alla chiarniela, che mi sintin da lontan, che strasuni las buteghes, la calegno cortesan. Più scanzonata nella sua rustica semplicità, che ha profumo di fieno, di bosco e di roccia, e che è un vivace quadretto della vita del lavoro sui monti del Friuli, è questa villotta in cui l'amore, nel suo motivo dominante, assume l'aria del dispetto. La biele son pladine di sé, aristielava il pen, e intanto che lo voltava, chiantava così ben. Finin gli svores di sé, finin di rischielà, gli sprucision scapassin an inglis a chialà. La biele son pladine di sé, con tante presunzion, e a chiol un vieli e gobo, cagliera un poc di bon. Fuit fantatis di sé, cal ven lo scodoros, al fas di la tatese e al vas di arfata al bos. Si fos in som quel ciup di sé, e a bas lo mio fantat, vorrei splatam intiere, vorrei sbutai un clap. Thank you. ma spesso purtroppo il lavoro non basta, soprattutto quando la terra è avara e le bocche da sfamare sono molte. E allora l'uomo affronta le strade dell'emigrazione, cercando coraggiosamente con sé, come voi, fratelli in ascolto, avete fatto, la sua tenacia e i suoi affetti più cari. Dopo la speranza del raccolto, la triste realtà del bisogno. Dopo la dolcezza dell'amore estivo, l'amara necessità dell'addio invernale. Una mano amata, sagita nel saluto, scompare nella nebbia, ma un cuore resterà sempre a battere sul ritmo del cuore del partente. Di lontan io ti saludi cu la man, ma la man no tu la viodis, te fumate di lontan. Te fumate o lavi in vie di bon pass che stal triunviar, ti riguardi stu ninine, prima il dolce e poi l'amar. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 56esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo e adattamento di Ermeti Pelizzari e Dino Menichini. Hanno collaborato Ottavio Valerio e il coro Legris Furlans di Feletto Umberto, diretto dal maestro Armando Del Fabbro. Musiche di Giordano Pazzut e canti popolari.